Innanzitutto è, diciamo, la prima volta che si ricostruisce per quanto riguarda appunto l'occupazione pubblica una serie storica che va dal 2001 al 2015, quindi che tiene dentro la fase, diciamo, pre-crisi del 2008, tutto quello che succede dal 2008 in poi, ovviamente nell'interazione con quelle che sono state le politiche economiche in ambito anche pubblico, quindi contenimento della spesa, blocco del turnover e quant'altro. Quello che appunto i dati mostrano è che se andiamo a considerare i tre comparti per cui si è appena rinnovato anche il contratto, quindi gli enti centrali, gli enti locali e la sanità, l'occupazione stabile, quindi quella a tempo indeterminato, diminuisce di circa 75.000 unità, un crollo se vogliamo, comunque una riduzione dovuta interamente alla componente maschile che diminuisce di 156.000 unità, mentre quella femminile aumenta di 28.000 unità. Quindi intanto c'è un dato, appunto, dell'occupazione stabile si riduce diversamente tra uomini e donne. La cosa che però stranisce, o forse neanche non sorprende neanche, guardando all'aumento dell'occupazione femminile, è che aumenta, diciamo, solo esclusivamente il lavoro a tempo parziale, quindi il part-time, sono sì nuove occupate, lavoratrici a tempo indeterminato, ma part-time, con tutto ciò che questo comporta anche in termini di part-time involontario, che però appunto nei dati del conto economico che sono stati, che ho elaborato, non è presente. All'interno però appunto della suddivisione per macro comparti, quello che si nota è che chi ha perso veramente di più in termini occupati stabili sono gli enti locali, che poi sono gli stessi enti, diciamo, più di prossimità rispetto al cittadino, e quindi quelli che effettivamente svolgono il compito di distribuzione e produzione di tutti quei servizi a soddisfacimento dei bisogni dei cittadini stessi. E poi, se vogliamo, c'è tutto il capitolo del lavoro flessibile, il lavoro precario, appunto, di cui lo Stato e la funzione pubblica non è minimamente esente. Qui c'è un dato un po' da dettagliare tecnicamente, che non si parla di numero di occupati ma di unità di lavoro. Quello che si vede è che fino al 2008 esplode, dal 2008 al 2015 anche questo, il lavoro precario ovviamente diminuisce. Una cosa relativa anche alle cose che ci siamo dette le settimane precedenti è che ciò che aumenta tanto, ma tanto, è il lavoro in somministrazione, e che poi se andiamo a vedere tutti quelli che sono i progetti di contenimento della spesa e di bilancio, di patto di stabilità interno per gli enti locali, e patto di stabilità generale per quanto riguarda l'interesse dello Stato, andiamo a capire che il costo unitario della somministrazione è più elevato di quello a tempo determinato. E questa è una notizia invece che deve sorprendere, deve continuare a farci pensare su quello che è appunto l'andamento, non soltanto l'occupazione, ma poi come vengono spesi i soldi una volta che appunto applichiamo più o meno delle politiche occupazionali. Poi se delle curiosità, dimmi tu che appunto sì, i dati ce ne sono. No, insomma, il fatto che per tenere nella precarietà alcuni lavoratori le amministrazioni pubbliche spendano di più dovrebbe appunto far riflettere. Quello che ti volevo chiedere, facendo un passo indietro, tu prima dicevi cala l'occupazione stabile e in generale l'occupazione è calata? Stabile sì, o non stabile? Nel complesso è diminuita. Sì, nel complesso è diminuita, perché appunto se il calo che abbiamo vissuto, quello complessivo tra il 2001 e il 2008, era sostanzialmente dovuto soltanto alla componente stabile, e quindi che era più o meno compensato dal lavoro flessibile, dal 2008 a oggi diminuiscono sia i lavori, diciamo i lavoratori flessibili, non atipici, precari, che quelli invece stabili. Certo, ecco, fa specie, ma insomma ce lo siamo detti anche in una puntata di qualche tempo fa, che sia anche l'amministrazione pubblica a praticare forme di lavoro come quello in somministrazione, che come dire, si immaginano, no? Stretto appannaggio dei privati che vogliono fare i furbi. Invece questo delinea una sorta di mentalità che oramai ha fatto presa nel paese in generale. Sì. E in realtà c'è anche un'ulteriore deriva, perché oggi appunto a discutere dei risultati del rapporto c'erano per esempio i tirocinanti dei tribunali, quindi cioè chi appunto non è neanche fuori dal contratto, se vogliamo, dei contratti anche atipici, cioè, giusto dei tirocini curriculari e extracurriculari, o anche tutti quegli idonei, no? Dei concorsi che però vengono tenuti in lista d'attesa, con delle liste d'attesa che dato il blocco del turnover non si sbloccano mai. Quindi effettivamente no, cioè, diciamo, questa deriva che non più il lavoro precario, ma appunto i lavori un po' usa e getta, completamente in qualche modo depredati da quello che è tutta una serie di diritti, di tutela, ma anche se vogliamo, no, di possibilità di carriera e di formazione, perché poi tutta l'altra retorica è che la pubblica amministrazione è inefficiente e siamo i primi ad applicare, diciamo, tutte quei meccanismi che prevengono proprio la formazione di competenze e professionalità nella pubblica amministrazione, di cui ne abbiamo estremamente bisogno, se poi pensiamo appunto che la pubblica amministrazione fornisce bene i servizi ai cittadini e anche alle imprese. Certo, ecco, tocco un tema che so esserti caro e ti chiedo insomma se è nel rapporto, insomma se l'hai indagato, la pubblica amministrazione si avvale, sappiamo insomma che si avvale anche degli studenti in alternanza scuola-lavoro e come dire, sono una componente in cui che viene utilizzata insomma per svolgere delle mansioni che dovrebbero essere svolte da altri? Ma allora, questo dato non esiste nei microdati del conto annuale, quindi non sappiamo né quanti sono né dove sono collocati e neanche per fare cosa, quindi è una cosa su cui non posso rispondere, però sappiamo a livello aneddotico, a livello appunto di indagini territoriali che sono state fatte, che anche la pubblica amministrazione usa l'alternanza scuola-lavoro, sì. Certo, ecco, quindi insomma è un quadro che se uniamo le varie cose, il fatto che ad esempio il contratto sia stato rinnovato poco prima delle elezioni, quindi insomma è stato un blocco anche salariale che è durato molti anni, e diciamo che il luogo comune che voleva il dipendente pubblico come dire privilegiato non esiste più. No, assolutamente, cioè, nel senso, anzi, questa è tutta una dinamica che soprattutto è un grande luogo comune, ma dall'altro lato è anche una dinamica che muore nel tempo e dove appunto una forma di precarietà, dove tra l'altro appunto la contrattazione è abbastanza rigida, anzi previene proprio la possibilità di poter uscirne, di avere no, degli avanzamenti o delle appunto in qualche modo l'interazione tra quello che è effettivamente il fabbisogno della pubblica amministrazione e quelle che invece sono le regole politiche che vincono o meno il soddisfacimento di questo fabbisogno occupazionale in vista di beni e servizi da fornire.